non ci pensi mai, quanto ti vorrei sussurrare, dolce amore mio, come stai? Non cambiare mai, ricordati che sei la mia illusione, dei ricordi passati con te. Credo che il tempo ti potrà ferire, far cancellare il buono che hai nel cuore, anche l'amore senza più promesse vola via così. Tu vai per la tua strada, non pensare, credi te. E poi la luce dentro te è così forte che mi lascia lì, senza parole, solo sospiri ormai. L'amore che mi dai a nessun altro poi potrà servire per baciarti ore e ore. Credo che il tempo ti potrà ferire, far cancellare il buono che hai nel cuore, anche l'amore senza più promesse vola via. Così tu vai per la tua strada, non pensare, credi te. Stavolta il cuore non mi fa morire, basta trovare solo quell'amore. Io l'ho trovato e quindi adesso scappo via con lei, che riempie la mia vita di sorrisi. I giorni miei non servono parole, ti amo quanto il mondo, basta solo dire per sempre noi.